come è vista la persona fragile nella società. È poveretta perché non la considerano. Non la considerano, ha bisogno di considerazioni invece. E secondo lei come si può favorire questo? Cioè che... Starle vicino, aiutarla, non so, aiutarla in certi modi, no? Che aiuti, se no è sola, è fragile ancora di più. E secondo lei qual è il maggior problema? Cioè perché una persona fragile non è vista proprio nella società? Parlare e chiedere qualcosa. A forza di parlargli, lei riesce a dire qualcosa, ecco. Non arrivo a parlare, come... ecco, vero? A forza di parlarle, riesce a dire qualcosa, no?